Una torre difficilmente distinguibile dall'edificio in cui è inserita è anche Torre Bertolotti, che sorge all'incrocio tra Vicolo San Damiano e Via Farini. È stata infatti mozzata e ridotta a un'altana dalla famiglia Saraceni, che alla fine del 400 costruì qui la sua residenza. La Cassa di Risparmio ne ha rilevato la proprietà sul fine dell'Ottocento e con l'inizio del Novecento l'ha resa sede dell'omonima fondazione. Durante i restauri avvenuti nel 1930 sono emerse le aperture originarie con soglia in selenite ed è stata ricollocata anche una lapide commemorativa che curiosamente riporta delle informazioni sbagliate. Vi si legge infatti: qui sorgeva la torre di Alberto Clarissimi, elevata nel 1100 e mozzata e trasformata in altana nel 1469. Ma è accertato che la famiglia Clarissimi venne in possesso della torre solo alla fine del XIII secolo e quindi non fu responsabile della sua costruzione. 1100 probabilmente indica il secolo XII e anche la data del 1469 non è corretta, perché le trasformazioni subite dalla torre e del complesso di cui fa parte appartengono inequivocabilmente agli ultimi anni del secolo XV. A costruire la torre furono i Bertolotti, una famiglia di mercanti che nel XII secolo si arricchirono con la fabbricazione di un bene pregiato quanto indispensabile, la pergamena. Alla torre era annesso un opificio che sfruttava le acque del torrente Aposa, oggi interrato, ma che all'epoca scorreva proprio lungo Vicolo San Damiano. Torre de' Toschi invece è visibile da Piazza Minghetti, ma è impossibile avvicinarsi a essa. Svetta al di sopra dei tetti con i suoi 26 metri di altezza, ma è circondata da edifici su tutti i lati, tra cui la splendida abitazione medievale dei Caccianemici. C'è poi una torre a Bologna che per secoli è stata data per dispersa. Era scomparsa, insomma, al punto che sfuggì al censimento dello stesso Gozzadini, che la riteneva crollata nel terremoto del 1505. Si tratta di Torre Conoscenti, ma non fu certo l'opera di un prestigiatore a farla scomparire, bensì una singolare serie di circostanze che iniziano con la morte del suo proprietario, Alberto Conoscenti, capitano delle guardie e poi tesoriere del comune sul finire del XIV secolo. Costui aveva accumulato abbastanza ricchezze da potersi permettere di costruire una casa-torre come residenza, che edificò adattando un'esistente postierla, una porta secondaria, della cerchia di selenite. A dimostrarlo sono i mattoni utilizzati, definiti dagli studiosi mattoni romani manubriati di recupero, legati con malta di calce mista a inerti di grossa grana, ovvero tutt'altro rispetto ai mattoni bolognesi usati in città dal XII secolo in poi. Non avendo eredi, Alberto Conoscenti lasciò i suoi beni al comune, che a sua volta, nel 1400, concesse l'usufrutto della proprietà alla famiglia Ghisilardi. Il lettore attento avrà già intuito che stiamo parlando di Palazzo Ghisilardi Fava, in via Manzoni, traversa di via Indipendenza, attuale sede del Museo Civico Medievale. Torre Conoscenti, nota anche come la Torre Ritrovata, si trova all'interno della sua corte. Ma andiamo con ordine e torniamo al 1484, quando Bartolomeo Ghisilardi fece costruire quello che è attualmente uno dei più vivaci esempi di palazzo rinascimentale bolognese. Il Ghisilardi scelse tuttavia proprio la torre come la sua residenza privata. Ora immaginate il suo sgomento, quella notte di gennaio del 1505, nello svegliarsi con il terremoto che faceva letteralmente tremare la sua camera da letto. La torre se la cavò con danni di lieve entità, ma per il nobiluomo lo spavento fu tale che morì di crepacuore. La proprietà passò a Filippo Fava nel 1546, che commissionò ai fratelli Carracci i fregi alle pareti che ancora oggi possiamo ammirare al piano nobile del palazzo, con episodi tratti dall'Eneide. Si tratta di autentici capolavori, tra i quali spicca l'Incanto di Medea, considerato il primo nudo moderno della storia dell'arte. Nell'Ottocento i discendenti della famiglia Fava ristrutturarono il complesso, innalzando il palazzo di due piani e inglobando quindi all'interno della struttura la torre medievale, che da quel momento, soffocata dagli altri muri e ben intonacata, al punto da essere indistinguibile dal resto dell'edificio, si può considerare scomparsa. Estinta la famiglia Fava, il complesso passò nuovamente al comune, che durante il ventennio la adibì a Palazzo del Fascio. Il fortuito ritrovamento avvenne in tempi recenti, nel 1975, dopo l'avvio di lavori di restauro per convertire Palazzo Ghisilardi Fava nel museo che oggi tutti conosciamo e che riportarono fortuitamente alla luce l'antico splendore della torre dimenticata. Un giorno lungo 10